A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. I grattacieli hanno sempre più piani, i cantieri in città sono sempre più numerosi e il tempo sempre più breve. Tra gru altissime e tunnel sotterranei, Milano si prepara e si avvicina al grande traguardo dell'Expo, un obiettivo a cui però puntano anche tutte le mafie. E da qui, da un cantiere, uno dei tanti, simbolo e immagine della corsa verso il 2015, parte allora questa puntata di A ciascuno il suo nella guerra dell'Expo contro le infiltrazioni. Referente a zona compresa vede, tra chilometro 6 e 700, però semafori verdi, e vedi che è di mia competenza. A zona di semafori in poi, fino a chilometro 22, è divisa a metà tra la mia famiglia e Cadara. Da chilometro 22 a 31, cerca di capire, è di competenza in che delle persone che per la strada vuota. Andiamo a dire e vediamo cosa possiamo fare. Saluto, compare. Anche l'Expo può diventare un affare di famiglia dei clan, come è stata la statale 106 Ionica. Anche in Lombardia i boss proveranno a spartirsi il controllo degli appalti, come hanno fatto in Calabria con i lotti della superstrada, fino ad un semaforo ad una famiglia, poi ad un altro, come avete sentito dalla viva voce di colui che in questa intercettazione agli atti dell'indagine che ha portato a 4 arresti a Reggio Calabria si definisce il referente di zona di un preciso lotto. Al grande affare di Expo 2015 i clan puntano da tempo e dalla Calabria alla Campania le intercettazioni di più inchieste tuttora aperte registrano il fermento dei boss che si interrogano su come fare per arrivare a Milano e mettere le mani su un business da 25 miliardi di euro. È il principale ora in agenda nel nostro paese, con le sue grandi opere da realizzare e i mille rivoli in cui cercare di infilarsi. Segnali di questo tipo sono stati raccolti già anche sotto al Duomo e la parola Expo è già entrata in atti giudiziari, come i famosi arresti dell'operazione crimine contro l'andrangheta tra Calabria e Lombardia. È anche per questo che proprio ora, in vista della partenza a luglio dei principali lavori legati alla società Expo 2015, è stato sottoscritto un protocollo di legalità che porta il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri a credere che da Milano può partire una nuova rivoluzione. Sono battaglie che si vincono soltanto se tutti vogliono fortemente vincerle, e a Milano si è prodotto questo risultato. Ora abbiamo il protocollo, un protocollo molto interessante, un protocollo molto particolare, una cornice quadro come non si era mai vista in Alta Italia. Oggi si firma un patto che non è soltanto la firma di un patto di buona volontà, vogliamo tutti fare sul serio. Da Milano sono partite le grandi rivoluzioni che hanno cambiato il paese. Se l'andrangheta entra nei grandi cantieri, soprattutto con i camion del Movimento Terra o con quelli che smaltiscono rifiuti, nella confusione dei subappalti o nella mischia della manovalanza arruolata all'ultimo momento, è quindi innanzitutto qui che i controlli preventivi devono aumentare. E i 12 articoli del protocollo che affida al prefetto il coordinamento delle attività di prevenzione e dei contratti pubblici lo mettono nero su bianco, come spiega l'amministratore delegato di Expo 2015, Giuseppe Sala. Expo e la prefettura sono un po' i capisaldi, no? Quindi questa collaborazione sarà la base del funzionamento. Dopodiché il nostro impegno è a, uno, dettare regole di gara che aiutino poi nel controllo, due, controllare minuziosamente ogni tipo di operazione, facciamo un esempio i camion che entrano, escono, il GPS, sapere dove sono, censire quanti movimentazioni hanno fatto e via discorrendo. Tre, elemento importante, la piattaforma. La piattaforma informatica permette di fare due cose. Uno, incrociare i dati, secondo, essere molto rapidi. Abbiamo firmato la Simpredi, abbiamo firmato la Lombarda, abbiamo firmato i sindacati, abbiamo firmato tutte le parti sociali, quindi ecco, questo è un altro bel messaggio che di fronte al problema tutti si stanno attivando. In ogni caso, un'azienda che è subappalta deve comunque dare garanzia che anche chi subentra accetti il sistema delle nostre regole. Un aspetto importante, chiunque abbia informazioni di rischi di infiltrazioni, pressioni, minacce, eccetera, eccetera, deve comunicarlo immediatamente alla prefettura. Questo è un altro livello di novità. e chi vuole essere il nostro partner deve firmare un documento che lo obbligherà poi a fare cose del genere, salvo essere escluso qualora non le facesse. 100.000 euro è costata la piattaforma con la banca dati, l'anagrafe degli esecutori, strumento fondamentale per una radiografia di chiunque entri nell'area Expo, insieme alla possibilità di allargare i controlli a tutta la rete dei subappalti, anche al di sotto di quelle che fino ad ora erano state le soglie di verifica, come ricorda ancora Sala. Cade nel momento giusto perché è con luglio che il grosso dei lavori partirà, quindi è importante essere pronti oggi, ma al di là di tutte le nostre regole sulle gare, la cosa importante è la presenza di questa piattaforma tecnologica, che garantisce fondamentalmente due cose: uno, incrociare tutti i dati; due, essere molto rapidi. E tutte e due le cose aiutano, perché si può avere tutti gli incroci, ma poi se l'informazione arriva in ritardo, la frittata è fatta. Invece così cercheremo di essere anche tempestivi. Avere l'informazione è sempre, come dire, il punto iniziale per la conoscenza di questo tipo di infiltrazione, però come lei ben sa sono i subappalti che sono il punto più delicato per le infiltrazioni. Su questo fronte, ecco, avete adeguati mezzi, strutture, organizzazioni per cercare e riuscire, anche considerando i tempi brevi? Cioè, molti dicono i tempi brevi dell'Expo danno un po' un aiuto in più a chi cerca di infiltrarsi. Facciamo l'esempio del subappalto, lei ha accentrato giustamente la domanda, e vediamo ad esempio quello che noi abbiamo fatto sulla gara di interferenze, quindi è un caso concreto. Noi abbiamo dato la possibilità al vincitore di subappaltare fino a un massimo del 30%, e questo è un punto. Dopodiché questo tipo di censimento delle informazioni sulle aziende dovrà essere fatto per chi ha vinto e per le aziende che vanno in subappalto. Queste white list di cui oggi parlavamo funzionano in questo modo, cioè se i subappaltanti sono in queste white list la procedura si velocizza, se no il colloquio diretto e rapido con la prefettura fa sì che al posto di utilizzare i 45 giorni canonici di legge per la verifica, col prefetto cerchiamo di accorciarli. Quindi di base capisce che se c'è una collaborazione forte con la prefettura tutto funziona, se no noi possiamo fare bene dal punto di vista del metodo, ma poi perdiamo opportunità. Quindi lei non pensa che i tempi brevi, diciamo, per la realizzazione di tutto ciò che serve per Expo e soprattutto le grandi opere che ad Expo sono collegate, ecco, diciamo, poi il problema vero forse sta più lì, siete tranquilli, insomma, non sarà un elemento che darà un aiuto a chi vuole infiltrarsi? Lei solleva un altro punto importante, spesso si confonde le operation, diciamo, in Expo con le opere connesse, no? Ovviamente io rispondo per le prime, sono costruzioni sufficientemente leggere, non ci sono grandi movimentazioni, quindi il rischio è minore, bisogna vigilare. È chiaro che sulle altre opere, le altre opere possono essere più delicate, ma infatti stiamo riflettendo come una serie di nostri accordi che stiamo facendo, ad esempio stiamo facendo un accordo con Inail, può essere esteso anche a realtà del genere. Per chi indaga, il poco tempo che manca all'Expo con la fretta per la realizzazione di tutte le opere fa aumentare i rischi di infiltrazioni, ma contemporaneamente ora fa salire l'attenzione e moltiplicare i controlli. In 2 anni sono stati già 80 gli accessi che la Direzione Investigativa Antimafia della Lombardia ha portato a termine nei cantieri, con un monitoraggio di 233 società e 1114 persone, come aveva già riferito ad A Ciascuno il Suo il capo della DIA Lombarda, il colonnello Alfonso Di Vito. Nel corso degli accessi noi effettuiamo controlli circa il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Volendo dare delle cifre, quanti sono stati questi accessi che voi avete fatto? Negli ultimi 2 anni più di 80, tra cui una decina di cave. Tenga presente che nel corso di ogni accesso poi il monitoraggio riguarda migliaia di soggetti, tra imprese e singole persone. Se voi ritenete che questo sia uno strumento importante è perché avete trovato che poi nei cantieri lavorano delle imprese e delle persone diverse da quelle che risultano sulla carta giudicataria dei singoli appalti, quindi guardi, trovate dei prestanomi, sì, in sostanza. Sì, guardi, allora, le imprese che vengono estromesse, tra l'altro negli ultimi 2 anni e mezzo le imprese estromesse dai cantieri pubblici in Lombardia sono circa 130, quindi un numero considerevole. Imprese estromesse o perché direttamente riconducibili a soggetti soggetti inseriti in contesti criminali o indirettamente riconducibili, quindi c'è il classico prestanome, o perché condizionate o condizionabili da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Parlo dell'impresa pulita che però, guarda caso, dà in subappalto i lavori a imprese mafiose. Capitolo Expo. Quali sono le opere che voi state controllando? Per l'Expo sono previste 68 opere. C'è da dire che per quanto riguarda il monitoraggio, il controllo sul rischio di infiltrazioni mafiose dell'Expo, è attivo anche il GICEX, che è il gruppo interforze centrale per l'Expo, che è costituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, con una sezione qui a Milano, di cui noi facciamo parte. Il problema delle verifiche antimafia per l'Expo è costituito dai tempi molto stretti per svolgere gli accertamenti. La fretta aumenta il rischio di infiltrazione? Questo sicuramente sì, ma saremo molto vigili e in ogni caso l'apparato di controllo è ben attrezzato. Anche perché dal momento che si tratta di appalti ampi, anche i numeri e le imprese da controllare aumentano. Avete un'idea anche di quante saranno? Per opere di una certa rilevanza possono essere impegnate anche 200-300 imprese complessivamente. E quindi se moltiplichiamo 200-300 imprese... E parliamo di migliaia di imprese sicuramente. Ecco, moltiplichiamo per le 68 opere... Di imprese, sicuramente sì. Quindi migliaia di imprese da controllare in neanche 4 anni. Sei clan sono fatti di rapporti tra compari, come abbiamo sentito in apertura, in quella intercettazione telefonica calabrese, anche tutte queste relazioni vengono quindi ricostruite da chi ha il compito di difendere l'Expo e le altre grandi opere ad esso collegate dall'assedio dei clan. A ciascuno il suo. Sono a parete tutto il tracciato della Brebemi, l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano. Su un'altra la Pedemontana, su tutte, riquadri e schemi per ogni singolo lotto. C'è una stanza nel palazzo della Direzione Investigativa Antimafia della Lombardia, dove le grandi opere sono altrettante mappe affisse ai muri, come si vedono in certi polizieschi quando c'è una caccia al serial killer. Stavolta però nel mirino degli investigatori ci sono i tentacoli che le mafie cercano di infilare negli appalti, a cominciare dall'Expo, come più inchieste già registrano e come le relazioni dell'antimafia già denunciano. E contro l'assedio dei clan, con l'Andrangheta in testa, la più ricca e la più potente in questo momento tra le organizzazioni criminali nostrane, a difesa dell'Expo sono stati introdotti strumenti come un protocollo di legalità che allarga fino ai subappalti, cavallo di Troia in genere delle infiltrazioni mafiose, le possibili verifiche nei cantieri. A farle i funzionari della Direzione Investigativa Antimafia, al cui interno c'è una specifica sezione appalti. Il funzionario addetto è il vicequestore aggiunto Marilena Di Paolo. Il protocollo di legalità è un accordo tra stazione appaltante e prefettura con il quale viene implementato il controllo antimafia e quindi le verifiche vengono estese anche a quei soggetti non previsti dalla normativa e ai subappalti sotto soglia, i subappalti sotto i 150.000 euro. Quindi possiamo dire innanzitutto che questo protocollo è uno strumento che permette di allargare la possibilità di fare delle verifiche anche a appunto per degli appalti di entità minore. E lo scopo principale dei protocolli è quello di estendere le verifiche antimafia. I protocolli sono nati per le grandi opere, quindi sono stati previsti dalla legge obiettivo del 2001 e poi ripresi dal codice dei contratti pubblici. In Lombardia, grandi opere, ora l'Expo, ma poi ci sono anche molti altri, diciamo, settori caldi e sensibili, e infatti di protocolli, l'ultimo è questo sull'Expo, ma non è l'unico. No, in Lombardia sono stati firmati 9 protocolli, di cui 6 già in vigore. Cosa riguardano gli altri protocolli? Cito i principali, il protocollo Brebemi, il protocollo Pedemontana. E ora appunto anche l'Expo. Quindi sono alcune delle grandi opere oppure dei grandi appalti che arrivano, che sono in preparazione, che sono in fase di esecuzione in Lombardia e che sono anche alcuni dei grandi temi sotto il vostro controllo, quello della DIA. Il mio settore si occupa appunto di monitoraggio delle grandi opere e quindi degli appalti pubblici. Le verifiche diventano molto più penetranti. In questo caso, quindi nel protocollo sull'Expo, ad esempio, vuol dire che voi andate a controllare anche i subappalti di chi entra a fare il movimento terra, che sappiamo essere un po' uno dei punti delicati. Diciamo le categorie a rischio e soprattutto controlli previsti al di là dei limiti di importo dei contratti. L'importanza è anche andare a vedere se, anche se per un importo piccolo, diciamo casomai per operazioni minori come può essere la guardiania o possono essere attività anche secondarie rispetto all'appalto, diciamo rappresenta un po' il cavallo di Troia a volte per le infiltrazioni per entrare nei grandi lavori. Certo, una circolare del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, la cito proprio perché ha cristallizzato le prestazioni a rischio e quindi quelle categorie contrattuali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. E quali sono? Una decina, movimento terra, smaltimento dei rifiuti, guardiania, non li a caldo, non li a freddo, i soliti contratti diciamo più sensibili alle infiltrazioni mafiose. Quindi attività che, anche se sembrano diciamo di contorno rispetto all'appalto stesso, al lavoro stesso, però rappresentano per gli investigatori, per voi investigatori, un po' il buco attraverso il quale le cosche cercano di entrare poi nei grandi lavori, giusto? Esatto, e sono le tipologie che vengono poi inserite sistematicamente nei protocolli di legalità proprio per individuare l'oggetto poi delle verifiche. Ed infatti è inserita anche nel protocollo che riguarda l'Expo, su cui ci sono grandi attenzioni. Certo. Questo protocollo prevede anche la creazione di una banca dati. Semplifica il procedimento di rilascio della certificazione antimafia. Tutte le informazioni relative alle imprese che partecipano a qualsiasi titolo alla realizzazione dell'opera, le maestranze, i mezzi, l'indicazione dei conti correnti dedicati. Questa banca dati permette di fare una sorta di radiografia, diciamo così, di chiunque abbia a che fare con queste società e con queste imprese che entrano negli appalti Expo. Le banche dati contengono dati dall'elenco di tutte le imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera, alle maestranze, ai mezzi, alle indicazioni dei conti correnti dedicati che consentono il controllo dei flussi finanziari. Poi andate a controllare anche i rapporti di parentela. Rapporti di parentela, certo, eventuali prestanomi, è uno strumento efficace proprio nella verifica delle imprese sotto il profilo antimafia, naturalmente. Questa volta vogliamo fare sul serio. Con soddisfazione il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il 13 febbraio ha salutato la firma del protocollo di legalità per Expo 2015 insieme, tra gli altri, all'amministratore delegato Giuseppe Sala. Una sfida di sicuro per chi vuole cercare di sottrarre il più grande affare sul piatto ora in Italia alle mire delle mafie. Una sfida che potrebbe anche spianare la strada ad un'altra innovazione nella direzione della trasparenza nei lavori, allargando l'obiettivo da Milano all'intero paese. L'introduzione, cioè, di un rating antimafia, una sorta di nuova e dettagliata certificazione per tutte le aziende che vogliano entrare negli appalti pubblici e che spiani loro anche la strada del credito con le banche. La proposta del delegato per la legalità di Confindustria Antonello Montante è stata infatti accolta positivamente in modo bipartisan dal governo e dalle forze politiche, oltre che appoggiata dai magistrati come Maurizio De Lucia della Procura Nazionale Antimafia. Avere la possibilità di imprese che si presentano alle banche con un bollino di qualità che in qualche modo gli agevola nell'erogazione del credito è una cosa che aiuta lo sviluppo e quindi da un lato rende queste imprese meno permeabili alle pressioni mafiose, dall'altro dovrebbe contribuire a uno sviluppo di tutto il territorio. In che cosa si differenzierebbe dalla certificazione antimafia che già esiste? Certificazione antimafia che peraltro a nostro giudizio va rivisitata, visto che non è uno strumento in questo momento particolarmente efficace ed è uno strumento burocratico, è cosa molto diversa. Noi immaginiamo, come dire, una sorta di commissione fatta da tecnici esperti con un bagaglio importante di informazioni che sia in grado in qualche modo di dare semplicemente appunto un giudizio di qualità. Quell'impresa ha ottemperato a una serie di requisiti sul piano della legalità, penso alle assunzioni non in nero dei lavoratori dipendenti, penso a chiarezza nei rapporti con i propri fornitori e altri fenomeni di questo tipo, penso naturalmente alle capacità manifestate di resistere al racket attraverso la denuncia, ecco, tutto questo ci porta a dire che quell'impresa è stata la parte della legalità e non in una sorta di zona opaca, diciamo così. E questo dovrebbe convincere anche il mondo bancario a valutare in maniera positiva questo tipo di sforzo che gli imprenditori fanno. A ciascuno il suo finisce qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci ritrovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul nostro blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.